Siamo puntuali, 8:03 minuti in questo momento negli studi di Via Zanardi per aprire il mercoledì con il Voltiamo Pagina. La formazione è completa, ne approfitto per salutare Silvia Albertazzi. Buongiorno Silvia. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. E buongiorno, mi anticipa i saluti, Stefano Calanchi, il nostro notaio. A tal proposito aggiungo 333-180-9494 per avere la possibilità di arricchire le vostre biblioteche. Intanto la prima domanda è la curiosità, cara Silvia. Oggi omaggio, sorpresa, niente? Omaggio. Omaggio, infatti non ho visto la consueta confezione con il regalo alternativo, ma sempre di grande qualità. No, oggi omaggio perché devo dire che l'editore di questo libro molto gentilmente mi ha mandato una copia apposta per il quiz. Per il Voltiamo Pagina. Per il Voltiamo Pagina. Salutiamo, sì, l'editore che è Gabriele Cappelli. Ah beh, editore prestigioso fra l'altro, quindi grazie, ne facciamo vanto di questa attenzione. Iniziamo la nostra rubrica di presentazione per queste uscite ricordando che la playlist è gentilmente offerta da Stefano Calanchi e Silvia Albertazzi anche per quest'oggi. Adesso la percentuale di presenza di queste quattro mani, o meglio dire di queste quattro orecchie, ce lo diranno loro tra poco, man mano che con la presentazione avremo modo anche di ascoltare musica. Intanto Silvia, allora parliamo di questo lavoro con tante sfumature di giallo. Ecco, bello, non voglio fare altre citazioni. Questa non è un giallo comunque. Ok, perfetto, ma è un ordine apparente delle cose. L'ordine apparente delle cose, oh, mi serve. Di Lara Fremder, edito appunto da Gabriele Cappelli, editore. Un libro molto, direi, non so, forse necessario in questo periodo. Senza dubbio un libro importante e, a mio parere, bello. E non solo a mio parere. E se lo dice la prof, è bello, punto. Ecco, bello, punto. Non è che... No, infatti sono molto contenta di poterlo mettere in palio perché... Mi piacerebbe sapere anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Ti dico, è un libro talmente... come dire, necessario ma anche spinoso, diciamo, che quando l'ufficio stampa di Gabriele Cappelli ha provato a proporlo qua a Bologna per alcune presentazioni, l'autrice era disponibilissima a venire a Bologna, sta a Milano, è stato detto no, è meglio di no perché è un argomento troppo divisivo. Ah, ok, adesso io oltre che curiosità ho un leggerissimo timore. No, no, non c'è niente da timoreggiare. Da timorare. No, si tratta, il problema è solo questo, che si tratta di, un racconto ambientato a Gerusalemme e la cui protagonista è una signora, una guida turistica ebrea, che però non vuole essere riconosciuta come tale, diciamo, quando la definiscono ebrea anzi si arrabbia, e che non rispetta le celebrazioni ebraiche eccetera, e ha questo diciamo questo problema in qualche modo che forse è comune a molti da quelle parti, di voler in qualche modo fare i conti col passato senza perdere la memoria. Cioè fare, la sua paura è che il passato naturalmente sappiamo di quale passato parliamo, il passato delle generazioni che l'hanno preceduta, dei suoi nonni che sono morti nei campi di concentramento eccetera, si trasformi appunto in violenza, si trasformi in qualche cosa che lei rifiuta assolutamente. Quindi la sua è una ricerca di identità che svolge anche attraverso il suo lavoro che compie in maniera molto particolare, perché porta in giro questi gruppi di turisti, ma a seconda dei gruppi che ha davanti, da dove vengono, se sono gruppi familiari, di amici o altro, lei si inventa anche le cose, quindi sì. Non solo racconta storie, non solo racconta quello che realmente è successo in questi luoghi o o a chi appartenevano i palazzi, eccetera, eccetera, ma inventa dei re, inventa delle situazioni, così, a seconda di chi ha davanti. Oppure può essere anche molto sgodevole se le persone che ha davanti non le piacciono. Non sono simpatiche. Sono simpatiche. E questo da un lato, da un altro lato, la sua a livello personale, la sua ricerca di identità, diciamo, è anche una ricerca di radici che compie attraverso alcuni reperti che trova in casa, per esempio in un cassetto dove contiene, come abbiamo tutti in casa, penso, quei cassetti dove c'è un po' di tutto, elastici, tappi vecchi, il vuota tasche. Ci sono 5 fotografie e sono fotografie molto vecchie che in qualche modo lei non sa bene a che cosa si riferiscano, e però ha l'impressione che servano a spiegarle la sua storia molto tragica, perché la sua mamma si è suicidata, e non si è suicidata, la sua mamma non era troppo giovane per essere in un lager o altro, niente. E una di queste fotografie appunto ritrae lei e la mamma un paio di giorni prima che la mamma compia questo tragico gesto, molto allegre, sorridenti, e lei continua a dire: ma perché una donna che poteva sorridere così davanti all'obiettivo, 2 giorni dopo compie un gesto del genere? Ma quindi la protagonista è molto giovane. Ha una 40 anni. Sì, è giovane. Sì, è giovane. E anche un altro problema, te lo credo, con una situazione del genere alle spalle, è in qualche modo soffre di un disturbo di personalità borderline. Ah. Quindi frequenta una psicanalista, una psichiatra, anzi, ce ne accorgiamo poco alla volta, però, non è che sia insistito. Devo dire questo per spiegarmi: il libro è tenuto sempre su una nota molto leggera, quindi io lo sto raccontando come se fosse un tragedione. In realtà, anzi, ci sono dei momenti anche divertenti, perché questa donna è una donna che non esita a mettersi in gioco e a dire quello che pensa, spesso e volentieri. E a un certo punto quindi decide di prendersi qualche giorno di vacanza per andare dal padre, che è sempre stato piuttosto assente dalla sua vita, andare dal padre oramai molto vecchio, e a chiedergli ragione e di queste fotografie, e soprattutto poi c'è anche un'altra cosa che lei ha presente nella sua vita, un quadro che lei vedeva da bambina, dove di fronte al suo letto, dove era ritratta una bambina a cui lei aveva dato anche un nome e che in qualche modo era la sua amica immaginaria. Sì. E qualcuno le aveva raccontato che questo quadro era stato era scampato ai lager, perché la tela era stata ritrovata cucita nella fodera del cappotto di un sopravvissuto. E quindi c'è questa storia molto molto intensa, che porta indietro anche quel tempo, che poi si vedrà se poi era vera o no. Infatti, visto come siamo abituati, ma in tutto questo libro non si sa, infatti non si sa se tutto sia vero o no. Dunque, quello che è interessante è appunto che questa persona però sia è una persona che ha dei disturbi, è una persona che ha avuto una storia tremenda alle spalle, però lei non è una vittima, non fa la vittima mai, si sottrae al vittimismo, direi. E come paga il prezzo di questo non fare la vittima? Essendo una persona sola, essendo una persona piuttosto isolata, che non riesce a stare con gli altri. Lei non ha un fidanzato. C'ha un amico. Col quale ha un bel rapporto, ma è solo un amico, che si chiama Gad, e che l'aiuta molto. E poi ha questo fratello che noi non capiamo se è un fratello vero o immaginario, perché fisicamente non lo vediamo mai. È metafisico a tratti. A tratti sì, a tratti, però vagamente. Forse lo sto raccontando un po'... Perché lo stai inventando? Non me lo sto inventando. Anche se la tentazione ci sarebbe, perché è un libro che ti porta bella a inventare. Però cosa. Allora, una cosa importante è direi che questo libro va letto comunque, prima di tutto tenendo in considerazione la nota che l'autrice ha fatto mettere all'inizio del romanzo. Questa è una cosa strana, no? Prima ancora del titolo e della prima pagina, diciamo, con il titolo e il nome dell'autore, eccetera, eccetera. Proprio appena tu apri il romanzo, dove spesso c'è una pagina bianca, lei ha fatto mettere questa nota: ho scritto questa storia prima del 7 ottobre, prima che l'ordine apparente delle cose si disintegrasse, lasciando ovunque dolore e macerie. Rachele Zwillig, che è la protagonista, che per tutto il romanzo ha gridato con forza la necessità di staccarsi dal passato senza per questo dimenticarlo, si muove ora fra antiche e nuove rovine. Bello. Comunque io non sono molto d'accordo con chi ne ha con timore rifiutato la presentazione, perché divisivo, a parte che rifiutare, nascondersi davanti a certe realtà non è mai qualcosa di bello, mi permetto di dire, e in più non mi pare che sia poi così divisivo. Divisivo nella misura in cui tu sei tutto dalla parte degli ebrei. Cioè, tu sei tutto, secondo me è così, perché questo è un libro che è fortemente, invece, mette fortemente in discussione il sionismo. Ad esempio, La critica ci sta. C'è un personaggio. Accidenti se ci sta. C'è certo. Un personaggio qui che è l'esatto opposto della protagonista di Rachele, che è questa sua falsa zia. Lei la chiama falsa zia perché è la seconda moglie di uno zio, quindi non è proprio un... È la ziastra! Lei la chiama falsa zia, appunto. Questa falsa zia, che è una persona di un'antipaticità enorme... Ma cosa dico? Di una antipatia enorme. Bene, questa falsa zia continua a porsi come il contraltare di Rachele, perché anche lei ha avuto la mamma che è morta, è rimasta orfana da piccola, però sua mamma è morta in un campo di sterminio. E allora lei continua a dirle: ma la tua mamma ha scelto di morire, ha scelto di lasciarti. Mentre, ma che cattiva. È molto cattiva, sì. Mentre la mia, invece, poveretta, non l'ha scelta la morte, quindi io sono più vittima di te. Misurare queste tragedie. Appunto. Dire. E quindi, quindi questa è una persona veramente molto antipatica, che però sta a significare appunto quel tipo di relazione con il passato che la protagonista invece vuole proprio cancellare, se vogliamo, o non cancellare, vuole superare. Vuol superare, certo. E alle 8:15 minuti, molto bello, grazie all'editore che ha portato questo consiglio, che è per voi, tra poco poi rispondendo al quiz al 333-180-9494 con la musica prendiamo un attimo di pausa. La selezione musicale a questo punto te la spiego un attimo, ecco. Sì, abbiamo deciso di prendere quattro donne, visto che il romanzo, certo, è scritto da una donna, parla di una donna, e quattro voci femminili. Stefano le voleva anche adesso te lo dico, le voleva anche abbastanza recenti, perché ha detto: porti sempre del vecchiume. Ah, ok, anche lui è stato molto carino. Molto carino, sì. Cos'è quel vecchiume? C'è sempre quel vecchiume. Cioè, facciamo qualcosa di recente. Allora, sono tutte dopo il 2000. La prima, Little Annie, che è l'unica che ho scelto io, infatti è del 2006. Ok. È la più vecchia, la più anziana, per modo di dire, poi. Le altre invece sono tutte fra il 2018 e il 2022, sono veramente recentissime. Molto più vicine. E basta. Il titolo. Sì, i dischi li ha scelti, vengono tutti dalla discoteca di Stefano. Grazie. I brani li abbiamo scelti insieme. End is Near, sì. Ed è un titolo abbastanza minaccioso, ecco, se vogliamo. Però anche, sì, attinente. E ci sentiamo tra poco, buon ascolto. When Little Emmy. I see the look in your eyes, I know that the end is near. When faces show traces of places I'll never know, I know that the end is near. Can you hear the collision of two minds missing the point on a parallel line? When ambrosia turns pat and ideology's flat, I know that the end is near. When objections, perception, obsession, dissension, I know that the end is near. When the soul controls control of the soul, I know that the end is near. When desires are fired by knowledge acquired and the line returns to its lair, When the state that we find is the state of our minds, I know that the end is near. When we're burning to learn and we're learning to burn, I know that the end is near. When you are who you beat on some lonesome back street, oh, I know that the end is near. When hell is reflected in trinkets perfected and the finger turns in on itself. When the state of this heart and all holds its parts, I know that the end is near. I know that the end is near. When objections, perception, obsession, dissension, soul of control is control of the soul. I know that the end, I know that the end, I know that the end is near. Did you hear that the end is near? Oh, che ho fatto con Stefano Calanchi e con il quale mi complimento anche con Silvia per la selezione musicale, ma è venuto in mente guardando nella borsa dei CD da tempo con me un disco che non è esattamente nella mia discoteca o nelle mie raccolte, è un disco invece poi ho saputo tramite ricerca molto bello, dei Pavement, che conosco poco, non so neanche lui ne ha la certezza di avermelo donato, ma lo continuavo a portare con me ed è venuto con me anche a Loreo. Allora, una ragazza con qualche problema che saluto, Ignazia, mi dice: ah, tu che conosci tanta musica, perché non mi regali un disco? Dice lei in tutta la sua innocenza. Allora io nella borsa dei CD che avevo appresso, nonostante il weekend, guardo e ho questo disco dei Pavement. E ha rischiato di essere consegnato a Ignazio. Poi sono stato fermato per questa consegna. E lei stessa mi fa: no, ma guarda, adesso un disco, va bene anche uno di Chopin. Cioè, va bene anche uno di Chopin. Va bene anche quello di un minore dal nome Chopin. Andrò a cercare quindi l'ultima pubblicazione di Chopin, questo autore che chiaramente non si può definire un minore, però trattato come tale momentaneamente. Per quanto riguarda questa particolare richiesta, e mi è rimasto impresso, va bene anche uno di Chopin, ma sì, dai, facciamo così. Bando a queste divagazioni da weekend, alle 8:21 minuti al voltiamo pagina di oggi, procediamo con alcune informazioni a proposito dell'autrice. Conoscevi? Credo di no, esattamente. No, non conoscevo l'autrice. Ho letto sul risvolto di copertina, appunto, che è nata a Milano, che vive a Milano e che ha scritto numerosi soggetti e sceneggiature di film che hanno anche ottenuto riconoscimenti e che insegna scrittura cinematografica al Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive di Locarno e alla Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti di Milano. E in effetti devo dire che questo film è un lapsus molto freudiano. Questo libro ha un andamento molto, ha un ritmo molto cinematografico. Devo dire, è un libro scritto benissimo, che si legge in un attimo perché appunto ha questo ritmo che ti coinvolge. ed è veramente, per me è stata veramente una grande sorpresa, perché tu leggi di cose che sono toste, se vogliamo, certo, però in maniera molto, molto lieve e anche scorrevole, molto scorrevole, e nello stesso tempo però non mai superficiale. Ti faccio un esempio, tanto non è che svelo nulla. Ti leggo l'ultima pagina. Sì. Allora, ci sono stati nuovi scontri questa notte. Ricordiamo sempre la nota iniziale, siamo prima della guerra, dell'ultima guerra, del 7 novembre. Raduno il mio gruppo, attraverseremo le strade dei profeti fra i segni e le ferite dell'ultima battaglia. La giornata è calda, domani ogni cosa ritroverà il suo ordine, poi sarà nuovamente disordine. Mi chiamo Rachele Zwillig e sarò la vostra guida. Voglio dirvi da subito che qui non servono mappe e satelliti. Qui è bene perdersi. Perdersi significa non cercare risposte, quindi non fatemi domande se non strettamente necessarie. Non interrompete il vostro smarrimento di fronte ad apparenti certezze. Mantenete il disorientamento, mantenetelo il più possibile, perché è questo ciò che ha valore. E quando avrete la sensazione di esservi ritrovati, guardandovi intorno, vivrete un'inevitabile contraddizione. Da un lato la realtà oggettiva con tutti i margini di errore, dall'altra la realtà unica, quella che siete voi a cogliere e che varia a seconda del sapere, del vissuto, dello stato emotivo. E ancora non basterà, perché il vostro sentire dipenderà dalle nuvole, dal vento, dall'azzurro del cielo, dalla stagione, dalla luce. Qui nessuno può darvi certezze, nemmeno io, ovviamente. Qualcuno allora si domanderà: perché mai dovremmo pagare una guida per muoverci tra le mura di questa antica città senza avere alcuna certezza? Non lo so. Il pagamento, non a caso, è anticipato. Seguitemi. Ascoltando, Silvia, tra l'altro una canzone bellissima. Stiamo ascoltando Aldous, io dico sempre strano, io dico sempre Aldous Huxley, ma Aldous Huxley è un'altra persona che non ha niente a che vedere. Aldous Harding, sì. Hai mai sentito una donna che si chiama Aldous? Io no. Evidentemente Aldous in questo Aldous caso. Harding. I get so anxious, I need a tattoo. Pilot, il titolo del brano, sono le 8:27 minuti, grazie per la bellissima colonna sonora sia a Stefano che a Silvia. Ho apprezzato molto, anzi potrebbe essere un'idea che tu abbia letto l'ultima pagina, perché io, anche scambiando idee ieri con Alessandro Berselli, che è stato in dialogo alla libreria Ubica a proposito dell'ultimo lavoro di Massimo Carlotto, e con Alessandro abbiamo convenuto che è il percorso, è il trovarsi all'interno di una narrazione, è capire determinati passaggi che fa grande il libro. Non esiste uno svelare, esiste qualcosa che porta a conclusione, certo, ma che ha la stessa importanza dell'incipit iniziale. Quello che troviamo all'interno è il vero valore essenziale per una scrittura, una narrazione letteraria, che sia romanzo o quant'altro. Allora, alle 8:28 minuti, a questo punto è il momento del quiz, cara Silvia. Sì, dunque... Noi vogliamo sapere. Sì, noi vogliamo sapere il titolo di una serie televisiva. Oh. Qualche anno fa lo vinco io. Ha avuto un enorme successo anche in Italia. Una serie televisiva che stava su Netflix, no? Ah, allora no, pensavo ai miei telefilm. No, no, no, no, qui siamo proprio molto vicini, no, allora. Penso che si possa vedere tuttora. Una serie televisiva ambientata interamente a Gerusalemme, in una comunità ortodossa di quelle... in una comunità ortodossa di quelle toste, per la precisione la storia di una famiglia Haredim, che è una di queste comunità molto ortodosse. Ecco, la storia aveva come titolo, la serie che ha avuto 3 stagioni aveva come titolo il cognome di questa famiglia. Io voglio sapere appunto il titolo di questa serie che malgrado sia stata presentata non tradotta, quindi in Yiddish e in ebraico con sottotitoli, ha avuto un successo strepitoso, perché bisogna dire era veramente molto molto bella. Non sto a ripetere il quiz perché sei stata molto chiara, guarda, io non la conosco. Comunque è il cognome, il titolo è il cognome di questa famiglia. Al 333-180-9494 aspettiamo le vostre risposte per avere autrice, titolo, casa editrice. Lara Fremder, l'ordine apparente delle cose, Gabriele Cappelli editore. A tra poco. Comportiamoci bene, Silvia, intanto bellissimo brano che sta ancora girando sotto la mia voce, Graceland, tu, l'autrice è Phoebe Bridges. Grazie Manuela, che scrive davvero bellissima colonna sonora. Perché dico sull'attenti? Perché è Manuela della libreria Ubic che ci sta ascoltando. Grazie. Grazie. Mi unisco anch'io a ricevere questi complimenti, dai. Ci vedremo tra... fra poco, cara Manuela, saluto anche la Raffa e tutte le ragazze di libreria Ubic per la nostra collaborazione, e soprattutto ci vedremo in occasione della presentazione dell'ultima raccolta di poesie di Silvia Albertazzi, che avrò l'onore di presentare. Sarà il 2 ottobre. Sì, cioè mercoledì prossimo. È un mercoledì. Pensa che è last minute che facciamo il prossimo mercoledì, Silvia. Lo anticipiamo anche adesso, quindi mercoledì 2 ottobre, il prossimo mercoledì, saremo alla libreria Ubic di via Ernerio 27, ovviamente a Bologna, per questa presentazione. Andremo più in approfondimento il prossimo Voltiamo Pagina. Intanto ritorna un grande campione, Andrea, che da un po', tra l'altro, per cui sono ben contento di consegnare, ed è Schitzel. Schitzel, sì. Ok, l'ho pronunciato quasi bene. Grazie, Andrea. Sul podio, ma non esattamente primo, anche Jarno da Calderara. Poi troviamo e diamo il buongiorno a Maria Carla, risposta esatta. Ha avuto un grande successo, quindi, questa. Sì, è stato, ha avuto un successo eccezionale, ma perché veramente era bella, ti appassionava moltissimo. Anch'io me la sono vista tutta. E do il buongiorno anche a Dino dalla Bolognina per quanto riguarda la risposta esatta, ma è il nostro, uno dei nostri campioni, e ritorna per avere il lavoro appena presentato da Silvia Albertazzi. Voltiamo pagina odierno. E ritorno anch'io con un "di lui leggete tutto". Mi mancava questa frase. È Giuseppe Berto, che a me piace tantissimo, uno dei più grandi scrittori del Novecento. La Fantarca, il lavoro pubblicato ovviamente da Neri Pozza, da un Giuseppe Berto completamente diverso. Le esce nel 1965, pubblica con Rizzoli La Fantarca per la prima volta, ed è, come ben sappiamo, lo stesso Giuseppe Berto, considerato troppo di destra per quelli di sinistra e considerato troppo di sinistra per gli ambienti di destra. Insomma, ha sempre avuto una visione lontana dai salotti, lontana da una realtà intellettuale, ma vi assicuro che questa sua anarchia letteraria ha un grande fascino, oltre che una grande capacità di svelare noi stessi, e non solo nelle sue parole, ma anche nell'emozione che sa trasmettere. Perché Giuseppe Berto, che non ti aspetti con questa Fantarca? Perché si parla di fantascienza in questo caso. Lo fa con un aspetto molto particolare. Già dalla parola arca immaginiamo un esodo, ed è un esodo molto molto grande. Perché? Perché in un futuro che sarà nel 2160, viene anche specificata la data di questo futuro, il 2160, viene ripresa questa nave spaziale, per cui ci sarà un viaggio che partirà da una precisa base, perché nel 2160 ci saranno delle basi che permetteranno questi voli galattici, e sarà un volo per la Speranza numero 5. Questo è il nome dell'astronave, più che navicella direi un'astronave, deve ospitare, pensate. Poi vi dirò perché bisogna anche stare attenti, ma è lui stesso che dà questa definizione ai viaggiatori. E siamo nel 2160, la Terra è dominata da due blocchi contrapposti che si minacciano e si armano, pensate un po', e nello stesso tempo abbiamo al comando di tutto ciò delle macchine. Le macchine hanno un'importanza fondamentale. Siamo in procinto di qualcosa di veramente brutto per il pianeta Terra. Allora si decide di portare e spedire su Saturno alcuni abitanti del Mezzogiorno in Italia. Pensate un po' che volo che fa anche dal punto di vista non solo spaziale, ma anche per quanto riguarda questo romanzo. e lui non fa tanti giri di parole. Li chiama terroni perché sono abitanti che partiranno da Vibo Valentia in Calabria con tutte le loro difficoltà, con tutte le loro caratteristiche di una questione del mezzogiorno già citata. Ricordo che siamo nel 1965, quindi insomma una soluzione: spedire gli abitanti del mezzogiorno rimasti in Sud Italia su Saturno. È un pianeta gigantesco, è il secondo solo dopo Giove, su cui potranno riprodursi a piacimento, ascoltare musica, avere la possibilità di estendersi. Questa soluzione per aiutarli all'impresa, i funzionari del nord del comitato della felice esacuazione delle aree depresse mettono a disposizione la Speranza 5. È una vecchia astronave rabbrecciata, rappezzata, pronta a salpare la partenza da Vibo Valentia. Il comandante è Francesco Torchiaro, detto Don Ciccio. Ma quando si parla di mezzogiorno, i progetti purtroppo tendono spesso a naufragare, perché non mancheranno sabotaggi, ammutinamenti, clandestini a bordo, ci sarà una nascita ad alta quota, in alta quota anche un matrimonio, la musica, le danze sfrenate, le sostanze stupefacenti per poter sopportare il mal d'aria. La situazione con atterraggi di fortuna procede e non manca veramente nulla a questo racconto, già dal punto di vista della fascinazione straordinaria. Metto una nota personale: non vi è nulla di offensivo o motivo di derisione, nonostante il termine così immediato, primario e, non nascondo, offensivo. Tutt'altro, viene esaltata una sorta di allegria, o chiamiamola così, non leggerezza, ma capacità di saper affrontare le situazioni più difficili e complicate, anche perché no, con qualcosa che dà incoraggiamento reciproco. Beh, ci saranno situazioni dove non manca proprio niente nella scrittura di Giuseppe Berto. È uno straordinario romanzo e lo confermo. La malinconia perciò non sarà più una preoccupata per la speranza per ciò che verrà. E questo però lo lascio, poi ovviamente posso leggervi anch'io l'ultima pagina, però per quanto riguarda i percorsi all'interno di questo lavoro, la Fantarca, indubbiamente essere compagni di viaggio di questo stranissimo equipaggio, vi posso assicurare che vi sentirete anche voi in volo verso Saturno. Io vi leggo l'ultima pagina. Bene, durante la notte il capitano Lopresti, il capitano Caroniti, 25 dei loro uomini e una dozzina tra infermiere e hostess, dopo aver rubato alcuni capi di bestiame, partirono verso il nord. Così indicavano la peste, probabilmente diretti a Parigi. Alcuni, specie i padroni del bestiame razziato, volevano inseguirli per ucciderli. Il comandante seppe dissuaderli e fa il suo ultimo atto di comando, perché poi si ritirò a vita privata, diventando coltivatore diretto, un po' come Cincinnato. Che altro? L'ammasso di rottami, che un tempo era stata una gloriosa, benché vecchiotta, astronave, fu per molte generazioni considerato sacro e pertanto venerato dagli abitanti di quelle contrade. Alla fine però erano arrivati a venerarlo, senza neanche sapere che fosse. 50 secoli dopo, quei rottami corrosi dall'acqua e dal vento erano dei residui informi, irriconoscibili. 100 secoli dopo non esisteva più traccia della Speranza numero 5. Ma già dalle parti di Creta c'era un tizio che meditava di fabbricarsi delle ali di penna e cielo per salire in cielo. Ma questi ritorni. Yeah. chiaro riferimento al mito, a Icaro, insomma, è bellissima anche la copertina, la collana è Bloom per Neri Posta, Giuseppe Berto, e questo viaggio organizzato per portare, per salvare, per dare nuove possibilità a una popolazione del Mezzogiorno, esattamente i 1347 rimasti in Sud Italia, portati su Saturno, pianeta gigantesco, come vi ho detto, secondo solamente al grande Giove, avranno modo, a visione di queste macchine, dei due blocchi contrapposti che si stanno preparando per una distruzione finale, avranno modo di rilanciare, di portare magari una civiltà, un comodo, una situazione consueta e consapevole anche per le esigenze di una nuova struttura di vita. La Fantarca, Giuseppe Berto, le edizioni e Neri Pozza. Un po' di musica che portiamo per completare la playlist di Silvia e Stefano, e tra pochissimo con il quiz torneremo in diretta. Dei cartoni animati di Anna e Barbera, e portava in giro per il mondo sopra un'arca altri animali antropomorfi, scusate. Non so, ad esempio c'era questo polipo molto molto divertente, simpatico, c'era Ernesto Sparalesto, il cowboy cavallo che più che pistolero era un pacifico giocherellone. Posso aggiungere anche Yogi, l'orso che ben conosciamo con il fido compare Bubu. Però l'ammiraglio di questa arca fantastica che racchiudeva tutti questi personaggi era, ed è, mi permetto di dire, per Anna e Barbera, un cane. Se mi dite il nome di questo simpatico cane, io ovviamente, visto che stiamo parlando anche di ascoltatrici e ascoltatori che hanno amici a quattro zampe molto presenti, ne sono ben contento, e saluto Irma che probabilmente è già in redazione. Però parliamo di una fantarca, c'era un'arca per Anna e Barbera che racchiudeva tutti questi personaggi che sto portando alla vostra attenzione, come ne aggiungo un altro, Svincolo Svincolone, questo leone molto timoroso che parlava con chiaro accento felsineo. Svincolo tutta manzina, aveva un accento riportato con quasi un vernacolo felsineo bolognese. Insomma, ne ho citati diversi per Anna e Barbera. Vorrei sapere il nome di questo cane molto particolare, tra l'altro di colore blu. Being fine. oggi pomeriggio raggiungerò libreria Ubic per avere e dare possibilità intanto per nuove proposte. Consiglio anche voi questa passeggiata e questo incontro Biennerio 27 a Bologna in collaborazione con il Voltiamo Pagina. Sono arrivate diverse risposte come di consueto, però il premio con risposta esatta è arrivata da Luca Braccobaldo. Esattamente, bravo Luca e grazie. Però arrivano altre risposte, vediamo, troviamo anche Matley. No, Matley, beh, Matley è grande Matley, bellissima citazione, il compagno di Dick Dastardly. Medaglie, medaglie, medaglie. Dino dalla Bolognina, risposta esatta, anche in questo caso sei arrivato un po' lungo, Braccobaldo. Ciao, è Braccobaldo? Scrive Laura, sì, è Braccobaldo, anche tu sei arrivata leggermente in ritardo, però mi raccomando, con il Voltiamo Pagina per arricchire le vostre biblioteche avrete sicuramente altre possibilità. I nostri vincitori per la giornata odierna, mercoledì 25 settembre, sono Andrea per la pubblicazione presentata da Silvia e Luca per la presentazione della Fantarca, che ritengo molto bello. A proposito, non ho dato una così informazione, ma l'avrete probabilmente intuito, è anche una prima volta in cui Giuseppe Berto si cimenta con l'ironia. In questo libro si ride, eh? La Fantarca, edizioni Neri Pozza, la collana è Bloom e lui è Giuseppe Berto. Giuseppe Berto, grazie a Neri Pozza che ha preso questa possibilità, ricordo Il male oscuro, La gloria, Anonimo veneziano, Il cielo è rosso, sono tutti veramente capolavori per quanto riguarda il Novecento letterario italiano e non solo. Un po' di musica è quasi sigla di conclusione con la voce di Jelisha Anderson, il sax contralto di Steve Williamson e il brano A Journey into the Truth. The journey to truth. Probabile che oggi ci sia il video, Silvia? Vedo che tu ti vesti sempre bene, io un po' meno, però insomma vedremo di fare la nostra figura. Senti una cosa, non abbiamo detto chi era la cantante. Ah, precisiamo. Del terzo brano. Sì, il terzo brano era di King Hannah. Ah, King Hannah, ok. No, il titolo non me lo ricordo. Però lo mettiamo a piè del video come playlist. A piè del video. Allora, okay. Quindi c'è il video. Adesso non voglio prendermi delle licenze che non mi sono permesse, ma penso di sì. Ecco. Allora, se c'è il video, troverete il video sulla pagina di Radio Città Fujiko. E in fondo al video, dove noi vi diamo le informazioni di massima sui libri di cui abbiamo parlato, c'è anche sempre la playlist. Bene, e noi diamo appuntamento a domani con il Breakfast Club che vi porterà in mostra e con il Voltiamo Pagina mercoledì prossimo. Come al solito abbiamo fatto tardi, io ti ringrazio tanto Silvia e ti auguro una buona giornata. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao a tutte e a tutti.